Nel leggere la lettera di Paolo ai Romani mi ha sempre fatto effetto il lungo elenco di trasgressioni, o peccati, che l'Apostolo definisce cose sconvenienti, sia perché è l'elenco più lungo, sia perché non è sempre facile riuscire a definire in modo così preciso dei comportamenti sbagliati. La sfida ricevuta da questo elenco mi ha spinto a dare un volto preciso a questi termini usati da Paolo, impegnandomi a dare una definizione ricca di un certo contenuto. Prima però leggiamo ciò che ha scritto Paolo in merito. Poiché non ritennero opportuno conoscere Dio, Dio li ha abbandonati ad una mente perversa, da far cose sconvenienti, essendo ripieni d'ogni ingiustizia, fornicazione, malvagità, cupidigia, malizia, pieni di invidia, omicidio, contesa, frode, malignità, calunniatori, maldicenti, nemici di Dio, ingiuriosi, superbi, vanagloriosi, ideatori di cose malvagie, disubbidienti ai genitori, senza intendimento, senza affidamento, senza affetto naturale, implacabili, spietati. Ora essi, pur avendo riconosciuto il decreto di Dio secondo cui quelli che fanno tali cose sono degni di morte, non solo le fanno, ma provano anche coloro che le commettono. RM 1.2832 1. L'ingiustizia. L'elenco delle cose sconvenienti o indegne, meno, come traducono altre versioni meno, non poteva che iniziare con l'ingiustizia, perché essa si riferisce a tutto ciò che non è giusto o retto e, poiché la vita sociale, personale e religiosa si regge su ciò che è giusto, l'ingiustizia mina alla radice ogni buon rapporto, qualsiasi tipo di felicità e di salute. Una persona che non ritiene opportuno conoscere il Dio trino delle Scritture, per forza di cose, è costretto ad essere ingiusto, e non perché è irreligioso, dato che molti religiosi sono più ingiusti di certi atei, meno, ma perché, essendo Cristo il solo giusto, se non lo si conosce, non si può neppure conoscere la vera giustizia. In merito poi al conoscere Dio, va sempre specificato che non si tratta di aderire ad una religione o praticare certi riti, ma piuttosto di un'esperienza tanto personale quanto a volte traumatica, dalla quale la persona riceve una consapevolezza molto particolare di Cristo. Gesù Cristo, allora, non è più un nome senza volto, ma diventa l'unica persona alla quale rivolgere preghiere e l'unico padrone al quale sottomettersi e ubbidire. In seguito la persona vivrà con altri che hanno fatto la stessa esperienza per praticare la giustizia sociale e religiosa. L'ingiustizia si pratica abbandonando queste semplici regole. 2. L.A. Malvagità. Una volta che una persona è ingiusta, non può che diventare malvagia. La malvagità consiste in tutto ciò che è riprovevole e insidia soprattutto l'umile e l'indifeso, procurandogli dolore e sofferenza. Nella Bibbia leggiamo che l'Eterno mandò il diluvio perché gli uomini erano malvagi. Gen 6, 4 a 9. Questo ci fa comprendere che gli uomini non erano solo un poco cattivi, ma che erano del continuo dediti a procurare dolore e sofferenza ai deboli e agli indifesi. La malvagità non è altro che il risultato della mancanza della conoscenza di Dio, perché quando si conosce Dio e il suo amore, per riflesso, non è possibile desiderare di far soffrire il prossimo. Questo vale anche per chi si professa credente, perché è possibile, anzi possibilissimo, aver posto fede in Cristo, ma non sentirsi amati. Una tale persona può, meno per vendetta o per ripicca, meno desiderare il male altrui. 3. L.A. Cupidigia. La cupidigia è considerata lo frenato e intenso desiderio di beni e piaceri materiali. Oppure, l'avidità del possesso materiale, la disonestà nella vita sessuale e negli affari. Definizioni più che giuste. Ma rimango sorpreso che non si faccia nessun accenno alla cupidigia nell'ambito morale e spirituale. Si può desiderare in modo sfrenato la buona reputazione, oppure essere avidi nell'avere ruoli importanti e onorevoli nell'ambito spirituale. 1 Cor 4.6, Ger 6.1314, LC 12.15, PR 1.19. L'Apostolo Giovanni, nella sua terza lettera, fa riferimento a Diotrefe, un credente, che nella Chiesa voleva a tutti i costi ottenere un primato. Chi desidera condurre una Chiesa, desidera un'attività lodevole, ma quando si vuole raggiungere tale obiettivo ad ogni costo, allora il desiderio iniziale si trasforma in cupidigia. Dobbiamo credere che non tutte le attività spirituali sono mosse da buoni intenti. 4. E la malizia. Tra le cose sconvenienti, la malizia è quella che mi disturba di più. Uno può essere ingiusto anche, perché è costretto. Può prevaricare il debole perché si sente insicuro, può concupire per debolezza. Può avere anche altri atteggiamenti sconvenienti come la gelosia, può essere iracondo, può arrivare ad uccidere per un colpo di ira, ma quando è malizioso non ha scusanti, arriva ad essere niente meno come Satana, l'avversario di Dio. La malizia è definita un accorgimento per ingannare qualcuno e, se tutto il creato geme insieme e travaglia, è proprio perché il diavolo con astuzia ha ingannato Adamo e Eva. Ecco perché chi ha l'intento di ingannare, chi vede del continuo ciò che è negativo, chi dubita con malizia dell'amore altrui, ha toccato il fondo delle cose sconvenienti. Jack 1.21 1 Pt 2.16 Pietro disse a Simone, che aveva creduto nel Vangelo, ma nutriva della malizia. Prega il Signore affinché, se è possibile, ti perdoni il pensiero del tuo cuore. Atto 8.22 5. L'invidia. L'invidia è inevitabile per questo mondo. Non lo dico per scusare chi nutre questo impulso, ma dato che l'invidia è quel sentimento di dispiacere per la felicità o i beni altrui e, poiché ci sentiamo per natura privati delle cose che a noi interessano di più, è normale nutrire dispiacere o rancore. Ecco perché l'Evangelo è la risposta ai problemi morali e sociali di questo mondo. Quando qualcuno realizza di essere amato da Dio, quando si rende conto di essere stato grandemente arricchito, quando è consapevole di possedere un tesoro e lo vuole donare anche agli altri, l'erbaccia dell'invidia non è tagliata per poi crescere, ma è completamente sradicata. Anche se sembra che questa cosa sconveniente non sia poi così grave, ricordiamoci che l'invidia è definita il tarlo delle ossa, PR 14.30, e che Cristo, il Figlio di Dio, andò in croce a causa dell'invidia dei religiosi, MMT 27.18. Quanto male può procurare l'invidia? 6. L'omicidio. È difficile pensare che qualcuno ritenga l'omicidio una cosa giusta, perché nessuno, ma proprio nessuno, vorrebbe che altri ci togliessero la vita o la togliessero a chi amiamo. Eppure, in certi momenti, tutti, ma proprio tutti, riteniamo l'omicidio giusto e opportuno. Lo riteniamo opportuno quando siamo profondamente arrabbiati, quando odiamo qualcuno, quando vogliamo eliminare una persona antisociale. In tempo di guerra, chi non andava al fronte per uccidere era punito con la morte. Gesù, che dai religiosi e dai politici era ritenuto un antisociale, fu eliminato con il consenso della folla, quella folla che prima lo osannava e lo seguiva. È incredibile, l'omicidio rientra fra quelle cose sconvenienti che per principio non riteniamo giuste ma che lo diventano quando ci pare opportuno. MT 15.19 MR 15.7 Esiste anche l'omicidio passivo, quando non facciamo ciò che ci è possibile per impedire la morte altrui, come gli aborti e l'ingiustizia sociale. 7. L.A. con Nuovo Testamento e S.A. o disputa. Quando Dio parla di contesa o disputa, non intende lo scambio di opinioni più o meno forti. Non si riferisce ad una semplice controversia, ma a quelle discussioni, che alla fine lasciano l'amaro in bocca. O creano dei muri di separazione, prima inesistenti. L'Apostolo Paolo ha avuto spesso delle controversie. La Bibbia ne ricorda almeno due, una con Barnaba e un'altra con Pietro. Ma nessuno di essi ne era uscito con l'animo amareggiato o diviso. E disputa, quando alla fine dello scambio di opinioni, mettiamo enfasi sulla parola opinioni, non sia più l'amicizia e l'apertura di prima. E come la pasta, quando si trasforma in lievito, non sarà mai più pasta. RM 13.13 1 Cor 1.11 8 L. A frode. È frode. quando si usa ogni artificio per ingannare, quando si vive di scaltrezza, imbrogliando e ingannando, quando si usano atteggiamenti e parole per tendere tranelli nei quali catturare coloro che, in buona fede, commettono l'errore di ascoltarli. È il caso dei farisei quando mandarono dei loro discepoli per porre una domanda a Gesù in merito al tributo da dare a Cesare, ma Gesù non era disavveduto e rispose: «Perché mi tentate ipocriti?» Matt 22.18. Mi chiedo quanti sono coloro che pongono domande o iniziano una conversazione senza secondi fini. Sono fortemente dispiaciuto quando dei teologi cercano di attirare delle persone al loro pensiero con mezzi illeciti. Accadde una volta che uno di questi volesse con una certa insistenza la mia firma di adesione a una sua confessione di fede, ma quando compresi che il suo scopo era la mia firma ad una dichiarazione di fede alla quale sapeva che io ero contrario, condannai molto apertamente il suo subdolo metodo, dicendogli che mi stava frodando. Da allora non mi ha più cercato. Atti 13.10. 9. Malignità. Come per la malizia, anche la malignità è una forma di sconvenienza veramente ripugnante. Si può sopportare chi è sempre pronto all'ira, si può anche commiserare chi è concupiscente e perciò ha uno sfrenato e intenso desiderio di beni e piaceri materiali, ma la persona maligna non ha scusanti. È un peccato che sale dal profondo della persona e non dagli occhi, come la concupiscenza, anche se ovviamente ci è la partecipazione della personalità. La malignità è odiosa perché la malvagità d'animo è la disposizione a pensare o giudicare male, è l'interpretare ogni cosa in modo maligno. Ed è facile comprendere come possa essere ripugnante una persona che ne sia preda. Non si può parlare né fare alcuna cosa né persino compiere del bene senza che la persona maligna interpreti tutto negativamente. Il clima dell'inferno non deve essere molto diverso. 10. Calunnia Antico Testamento ORI. In una comunità, il calunniatore può essere paragonato a colui che semina in un orto delle erbacce e poi se ne va. Il calunniatore non deve essere confuso con il maldicente, perché mentre il maldicente alza impietosamente il livello sui difetti degli altri e li espone al pubblico ludibrio, il calunniatore inventa parole e azioni del prossimo mai commesse, pur di mortificarlo. 2 Co 12.20 GC 4.11 1P 2.112 3.16 Così, oltre a essere di per sé sbagliato calunniare, è oltremodo disdicevole avere l'obiettivo di umiliare o scoraggiare il prossimo. L'esistenza umana non è già abbastanza cosparsa di dolori e affanni? Perché procurarne degli altri? Chi calunnia avrebbe piacere che altri facessero la stessa cosa nei suoi confronti. 11. Il mormor Antico Testamento, ORE. Il mormoratore è colui che riporta parole e azioni altrui, colorandole di sospetti e corredandole di malafede, al fine di creare malessere e subbuglio negli animi. 2 Cor 12.20. Una simile persona in genere ha una morale religiosa, ma sapendo che è sbagliato sparlare o calunniare il prossimo, si limita a dire la verità in modo tale da suscitare nell'ascoltatore una insana curiosità o degli ingiustificati dubbi. È come dire ad un marito geloso: «Ho visto tua moglie con Carlo, il tuo amico. Però strano, erano al parco in un angolo». Oppure: «Marco mi ha detto che hai parlato di me l'altro giorno con i tuoi amici, ma mi è sembrato che il suo parlare avesse un secondo fine». È molto facile creare degli insani sospetti negli altri, sia usando qualche parola in più, sia usando un particolare tono. Perciò, per essere in regola con Dio, occorre tenere presente anche il clima che si lascia dopo una conversazione. 12. Maldicenza. La maldicenza è una delle cose sconvenienti che si usa spesso per il proprio vantaggio. Vuoi dividere due amici? Pettegola con uno a danno dell'altro. Vuoi separare un coppia di sposi? Ripeti a un coniuge che il suo partner non è quello giusto. Vuoi silurare il posto a qualcuno? Crea sospetti negativi tra i suoi collaboratori. La maldicenza non è come un proiettile che, se arriva in un punto vitale, ti uccide di colpo, ma è come il seme di una quercia caduto in terra. Lavora fino a quando non cresce, diventando tanto forte che non può più essere sradicato. 13. L'arroga Nuovo Testamento è: l'arrogante è colui che riconosce solo la legge della sua forza, con la quale tenta di demolire ogni giusta e onesta resistenza. 1 Tim 1.13, 1 Tess 2.2, Atti 14.5. Non a caso, questa è proprio una delle caratteristiche non adatte a un conduttore di chiesa, Tito 1.7, perché se il suo compito è di pascere le pecore, non potrà certamente adempiervi usando maniere forti. L'arroganza è tra le cose sconvenienti, perché impedisce al prossimo di crescere e di realizzarsi. Chi è arrogante pensa solo a se stesso e al suo successo, atteggiamento questo contrario e dannoso alla vita comunitaria. Mentre Gesù è morto per unire i figli di Dio in un'unica famiglia, l'arrogante li divide. Quanto danno può fare l'arroganza? 14. Il borioso, MT 7.21, 2 Tim 3.2. Il borioso è colui che è pieno di se stesso e pensa di valere più di tanto e di tutti. In genere è colui che non è maturato psicologicamente, è colui che ha un'opinione alta di se stesso e guarda gli altri dall'alto in basso. Ho ricevuto varie confidenze da un ragazzo che era del continuo schernito a scuola e non potevo che biasimare i suoi compagni. In seguito sono venuto a conoscenza delle arie che si dava con i suoi coetanei e, solo allora, mi sono ricordato come a volte ne avesse disprezzato in certe situazioni, benché fossi per lui non solo un padre, ma un nonno. Allora ho compreso. Il borioso è colui che non vede altro che la sua bravura trattando gli altri come fastidiosi insetti. 15. Ingegnosi nel male. L'ingegnoso nel male generalmente è una persona intelligente che usa la sua intelligenza per compiere azioni ingiuste. Per chi possiede un cuore puro e onesto, è difficile comprendere come uno possa avere una tale inclinazione. Ma, come per un maiale è normale rotolarsi nel fango, così un gatto è sempre teso a pulirsi il pelo. Allora sacilissi possiamo la manginatano cubretis malamienti fraterna manginanti si tramanosere la manginatano nessine specchi quant'anno che li vocare si potrebbe pensare che la colpa non sia sua, ma non è così. Se fosse per un'inclinazione naturale che una persona è tesa al male e un'altra al bene, bisognerebbe concludere che vi siano due categorie di persone, una buona e una cattiva. Ma poiché tutti siamo progenie di una sola coppia, e tutti abbiamo la stessa inclinazione sia al bene sia al male, significa che alcuni hanno alimentato una parte più che l'altra. Così l'ingegnoso al male è colui che ha amato il male più che il bene. 16. Ribelli ai genitori. Non esiste bambino che non sia stato disubbidiente ai suoi genitori, perciò essere ribelli ai genitori non significa essere disubbidienti, ma qualcosa di molto di più. Significa avere un atteggiamento contrario alla loro autorità, alla loro disciplina, alla correzione. Sono coloro che vogliono arrivare a raggiungere a qualsiasi costo i loro obiettivi. I ribelli ai genitori sono arroganti e presuntuosi, credendo da non avere da imparare né da chi li ha generati né da chiunque altro. I ribelli ai genitori sono anche ingrati, perché la sottomissione ai genitori è anche un atto di ringraziamento a chi ci ha messo al mondo e ci ha dato la possibilità di vivere nella società. Se si inizia a comportarsi sconvenientemente da bambini, cosa si farà da grandi? La scrittura dice: anche il bambino dimostra con i suoi atti se la sua condotta sarà pura e retta. Prov 20:11 c. È da riflettere. 17. Gli insensanti cotestamento primo. L'insensato è colui che cammina di corsa in una strada buia e sdrucciolevole. In genere l'insensato è colui che non ascolta consigli, Infatti tutti nasciamo ignoranti e senza esperienza, perciò è solo ascoltando gli altri che si può acquistare conoscenza e accortezza. Per l'insensato non esiste che una sola soluzione, per non rimanere tale, riconoscere la necessità di acquisire conoscenza e rivolgersi verso Cristo, che è la vera sapienza. Come i più grandi atei sono diventati cristiani dopo aver riconosciuto la fragilità e la limitatezza della vita, così l'insensato può diventare savio nel momento in cui pratica la giustizia. Altrimenti la domanda di Dio è sempre valida. Può un etiope cambiare la sua pelle o una tigre le sue striature? Allo stesso modo potreste voi abituati a fare il male fare il bene? Ger 13:23-18. Senza affetti in Antico Testamento Urali. Il mondo animale e la razza umana sono animati da sentimenti. Entrambi gioiscono, piangono, giocano e hanno paura. È normale quindi che gli esseri umani siano soggetti a degli affetti chiamati naturali, perché non necessitano di virtù particolari per essere espressi. Quando non tiene più in considerazione le relazioni affettive, come l'amicizia, né le disposizioni d'animo positive, come la benevolenza, l'uomo arriva ad essere peggio di una bestia. Per del denaro e per l'onore. Molte persone sono state capaci di uccidere spietatamente uomini, donne e bambini, e questo fa rabbrividire anche chi non è abituato a riflettere moralmente. Come saranno trattate queste persone davanti a Dio? 19. Gli implacabili. Tutti sbagliamo in mille modi e in molte maniere, perciò alla fine abbiamo bisogno di essere perdonati. Implacabile è colui che non perdona, colui che approfitta di una legge per adempiere il suo spietato obiettivo. Se l'implacabile tratta gli altri non come vorrebbe essere trattato, la sua colpa diventa maggiore. Se invece non perdona e vorrebbe essere perdonato, Dio lo tratterà come lui tratta il prossimo. Dio sarà implacabile. 20. Gli inispietanti, Antico Testamento primo. La persona spietata, assieme agli implacabili e a coloro che sono senza affetti naturali, si può definire disumana. Anche l'animale più feroce, di fronte all'indifeso, spesso non si comporta con ferocia. Ho presente quella donna cristiana che fu messa nella gabbia di un gorilla. Poiché era svenuta, l'animale la prese dolcemente in braccio per esaminare questa debole creatura. Ma gli aguzzini, per raggiungere il loro scopo, torturano il gorilla, il quale, inferocito, stritolò la ragazza. È brutto essere spietati nel campo umano, ma nell'ambito della fede cristiana non trovo peggiore atto sconveniente. Che Dio ci protegga da tutti questi 20 atti sconvenienti, soprattutto ora che li abbiamo presi in esame. Amen. Maggio 2012. Ellero.